Sono stati eventi senza precedenti. In questi giorni capita di riguardare i video dall'alto, le immagini, le riprese, quindi si comprende bene la devastazione che ha portato a far sì che la Regione Emilia-Romagna, di concerto col governo, perché la lettera viene sottoscritta, cofirmata, abbia depositato una richiesta di finanziamenti che cuba 8,5 miliardi di euro trasmessa all'Unione Europea. E vogliamo nuovamente ricordare, stringendoci a fianco alle loro famiglie, 17 persone che nei diversi territori hanno purtroppo perso la vita. A seguito di questi fatti, per quanto riguarda la ricostruzione pubblica, sono stati messi a disposizione 2,8 miliardi di euro di risorse che sono diventate già opere, sono in fase di cantiere, sono in fase di progettazione. Di questi 2,8 miliardi di euro residuano nella contabilità speciale del commissario 60 milioni, quindi 2,8 miliardi di euro con un diverso grado di dettaglio, appunto opere concluse, opere che si stanno per concludere, opere in corso, opere progettate, però hanno quei 2,8 miliardi di euro, a parte 60 milioni, hanno già un nome e cognome, sono state destinate ai territori, sono state messe a disposizione dei sindaci, delle sindache per appunto ripensare e ricostruire i territori feriti. E di questi 2,8 miliardi sono 373 milioni di euro i cantieri che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha portato avanti, 273 cantieri appunto. Insieme a questi sono stati destinati 352 interventi frutto di una collaborazione che abbiamo voluto scrivere con i consorzi di bonifica, che sono nostri alleati nella cura del territorio, nel governo del territorio in termini di sicurezza idraulica e di idrogeologica, e 78 interventi poi sono stati invece consegnati ad AIPO, che è l'agenzia interregionale per il fiume Po, che si occupa, che fa lo stesso lavoro di agenzia in una parte dell'Emilia. La gran parte delle risorse è stata destinata, 1,4 miliardi di euro, agli interventi sulla viabilità, sulle strade. Quindi ad oggi sulla ricostruzione pubblica 2,8 miliardi messi a disposizione, 60 che sono ancora da destinare dopo l'ultimo atto a scavalco tra le due amministrazioni regionali, cioè l'ordinanza 13 ter e la consegna alcuni giorni fa a seguito del lavoro fatto dal presidente insieme al commissario Curcio dell'ulteriore 1 miliardo di euro che andrà a finanziare il programma pluriennale, quello destinato invece alla costruzione di maggiore sicurezza idraulica nei territori. Quindi fin qui abbiamo riparato, quando siamo intervenuti abbiamo comunque realizzato opere migliorative delle condizioni prevento. Oggi stiamo parallelamente portando avanti tutto un lavoro che invece ci consegnerà anno dopo anno, mese dopo mese, condizioni di maggiore sicurezza. Il settore dell'agricoltura, l'abbiamo detto tante volte, è quello più colpito, 11.300 le imprese danneggiate in Emilia-Romagna, 160.000 gli ettari di terreni produttivi attraversati appunto dalla furia dell'acqua, 320 milioni di euro le risorse già adesso destinate alle aziende agricole del nostro territorio. Ci sono i 52 milioni di euro frutto delle donazioni delle imprese di tantissimi cittadini e cittadini che abbiamo gestito attraverso la legge 13 del 2023 con quattro macro finalità. La prima, i due bandi per le auto alluvionate. La seconda, l'acquisto da parte delle famiglie, dei privati, di sistemi di autodifesa e autoprotezione, il cosiddetto bando paratie. 6.902 le domande, 2.800 quelle che i nostri uffici hanno già lavorato. Interventi a sostegno dei sindaci per accompagnare le fragilità e in qualche caso anche siamo intervenuti sugli edifici pubblici, palazzetti, scuole, insomma, per dare una mano anche alla ricostruzione pubblica degli edifici che hanno un interesse per tutta la collettività. Questi numeri che oggi abbiamo voluto raccontare e che mettiamo a disposizione tramite siti, tramite il nostro sito, tramite altri strumenti, le pillole, i podcast, servono a fare informazione, servono perché quando si parla di risorse pubbliche e quando si parla di risorse in alcuni casi frutto di donazioni, la trasparenza è un dato fondamentale, quindi bisogna che tutti i cittadini cittadini e le cittadine abbiano contezza di come quei soldi vengono spesi. E poi penso che tutto questo lavoro, insieme a quello che si sta facendo insieme all'università, insieme a tanti professionisti, ci aiuti a contribuire a costruire quel clima di maggiore consapevolezza, quei rudimenti che è interesse della Regione Emilia-Romagna che ogni cittadino e ogni cittadina abbia per poter affrontare appunto con maggiore consapevolezza i tempi nuovi che ci stanno accompagnando e su cui questa legislatura, la Giunta, il Presidente si è impegnato giorno dopo giorno ad aumentare gli sforzi in termini di cambio di passo, di lavori che continuiamo a fare ogni giorno con maggior vigore.